got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Bentornati da Valentina Furlanetto, il nostro appuntamento tra identità, cucina e migrazione. Quale piatto migliore per parlarne del couscous? Un piatto che unisce tutto il Mediterraneo, che si cucina nel Maghreb, in Marocco, Egitto, Tunisia, ma anche nel sud dell'Europa, in particolare in Francia, in Spagna e in Italia, chiaramente. Amato dagli arabi come dagli israeliani, le varianti sono infinite e gli chef si stanno sbizzarrendo con le infinite possibilità che offre questo piatto, povero ma ricco, sintesi di molte culture e ricco di storia. E mentre noi parliamo, a San Vito Lo Capo, in Sicilia, si cucina, perché in questi giorni proprio si tiene il campionato del mondo di couscous al Couscous Festival, arrivato alla 20ª edizione, che si chiude proprio domani. Al Couscous Fest partecipano gli chef di 10 paesi, Angola, Costa d'Avorio, Francia, Israele, Italia, Marocco, Palestina, Senegal, Stati Uniti e Tunisia. Ci colleghiamo proprio con San Vito Lo Capo in Sicilia, dove c'è uno degli chef che partecipa. Io do il benvenuto a Shadi Hasbun. Buonasera. Shadi è un cuoco, un insegnante, un ristoratore, il personaggio televisivo toscano palestinese per eccellenza ormai. Benvenuto a Indovina chi viene a cena. Grazie di essere con noi. In arabo o in italiano? Come facciamo? Italiano, per me è meglio italiano. Vai, allora prego. Allora, origini palestinesi, no? E sei cresciuto in Palestina. Raccontaci qualcosa di te, poi ti chiediamo subito invece di cucinare per noi. Allora, sono nato in realtà a Firenze, però il babbo è di Betlemme e la mamma è maremmana di Massa Marittima. Poi sono partito per la Palestina, ho vissuto 10 anni, quindi tutta la mia infanzia l'ho passata in Palestina, e per l'esattezza tra Betlemme e Ramallah, quindi Betlemme città natia di mio padre e Ramallah dove poi ci siamo stabilizzati per alcuni anni, finché poi non sono ritornato nuovamente in Italia. Quindi nel mio sangue scorre per metà sangue palestinese, per metà sangue maremmano, tosco maremmano. Sei cresciuto in una terra travagliata, c'è poco da dire, no? Stimolante. Travagliata, ma ricca di cultura, ricca di storia, sì. Di colori, di storia, esatto. Che tu avrai assimilato, poi ce lo racconterai. Sei tornato in Italia, dove hai studiato, poi anche coniugando amore per la cucina, per la musica, per i beni culturali, anche qui terra ricca di storia. Tra l'altro pensavo, la Toscana è una terra molto gelosa della sua originalità. Come hai fatto a coniugare queste due personalità così forti? Guarda, in realtà benissimo, perché fondamentalmente sembra tutto lontano, sembrano culture diverse, ma in realtà se ci pensi tutto il Mediterraneo è unito dagli stessi ingredienti. Quello che cambia sono un po' le modalità. Magari in Toscana si utilizza più le erbe aromatiche, mentre in Medio Oriente e Nord Africa si gioca un pochino più con le spezie. Ma se te pensi, le basi di queste cucine tutte legate nel Mediterraneo, per cui io anche nel mio lavoro utilizzo molto cucina mediterranea, le basi quali sono? Sono l'olio extravergine d'oliva, il grano, l'uva, sono quelli che sono alla base poi di tutta la dieta mediterranea. Poi lasciamo stare la melanzana, che è uno dei prodotti che viene più utilizzato in tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, ovviamente importata, però ha il suo peso, perché ce l'hanno in tutte le culture, dalle moussaka del Medio Oriente per arrivare in Grecia, per passare poi alla parmigiana in Sicilia, quindi ingredienti che sono alla base simili, solo che vengono ritoccati. Quindi la domanda iniziale sulla Toscana: fondere insieme cucina palestinese e cucina toscana non è stato così difficile come potrebbe sembrare, perché ci sono molti piatti anche in comune. Uno per tutti, potrei farti l'esempio, il fattouche, che è una panzanella croccante. Sono molto simili, quindi il gioco tra questi due piatti, e ce ne sono molti altri, però questo è il più classico, perché per chi non sapesse cos'è la panzanella, è un piatto toscano a base di pane raffermo ammollato nell'acqua, che viene poi aggiunta altre verdure come cipolla, pomodoro, carote, basilico, e quello palestinese più o meno è uguale, solo che viene fatto con pane raffermo croccante e al posto del basilico fondamentalmente ci si mette prezzemolo e menta. Un altro esempio di contaminazioni o di piatti con i quali tu vedi delle affinità? Un altro, guarda, una base potrebbe essere le polpette di carne, così si passa da un piatto tipicamente vegetariano e vegano a uno completamente carnivoro. Le polpette di carne, che credo che facciano parte di qualunque tipo di cultura mediterranea, Da noi si chiamano kufta e sono a base di carne macinata, normalmente di manzo, e vengono normalmente speziate e cotte o sulla brace o spesso in tingoli fatti a base di crema e di sesamo. In Italia si fanno queste polpette dove poi vengono arricchite da pecorini oppure da parmigiani o altri tipi di formaggio e vengono cotti poi o fritti o cotte nel sugo di pomodoro. Quindi le affinità di piatti ce ne sono tantissime. Sogno la pace nel mondo, ma a casa sono brava a far la guerra, la storia è sempre quella. Noi siamo tutti uguali, ma il colore della pelle conta. Se parte la rivolta, combatto con lo scudo dello schermo, le armi da tastiera. Di giorno sto in trincea, lancio opinioni fino a sera. Torniamo al nostro couscous, perché a San Vito Lo Capo si celebra proprio il couscous, la cui origine è così un pochino rivendicata la primogenitura da diverse culture. Ma di dove è originario il couscous? Esiste un posto, un luogo, oppure è davvero di tutto il Mediterraneo? Allora, diciamo che è di tutto il Mediterraneo fondamentalmente, perché poi non è altro che una pasta fatta in questa maniera piccolina, diciamo, che ricorda un po' la fregola sarda, oppure la pastina piccola laziale. Quindi in realtà già nella cultura italiana esisteva questa piccole porzioncine di pasta sgretolata. Quindi il couscous non è altro che una rivisitazione di una pasta, possiamo dire, oggigiorno. E sicuramente il Maghreb detiene la maggior parte dei couscous conosciuti a livello storico, diciamo così. Però ovviamente ormai la Sicilia contaminata è ricca di queste di questi piatti. Dice che ufficialmente ne esistano più di 60 tipi a livello ufficiale e tradizionale della cultura, quindi è difficile identificarlo in un posto unico. Però ti dico una cosa carina, e così lasciamo anche un po' di questo anche per i nostri radioascoltatori. Una cosa molto carina: da noi in Palestina non si chiama couscous, perché cous ha un significato un po' particolare. Ora in radio non lo diciamo, però glielo facciamo cercare ai nostri radiospettatori. Quindi in Palestina si chiama mastoul in realtà. Continui a raccontarcelo tra un attimo, abbiamo una pausa. Sono stanco degli esperti, degli opinionisti, delle menti illuminate, dei polemisti, dei cattivelli e dei buonisti. Non mi interessano i liberati, gli emancipati, i saggi e i timorati. Mi annoiano i cinici, i brutali, gli spregiudicati e gli immorali. Sbadiglio quando ascolto i mangiapreti, come pure i clericali. Non mi convince chi difende i valori come chi inneggia i pastori. Non mi divertono le vergini vestali, ma nemmeno i libertini plateali. Che faccio nel mio tempo libero? Parlo alla radio, ascolto chi mi ascolta ogni giorno per il solo piacere del dubbio. Melog, il piacere del dubbio, dal lunedì al venerdì, dopo l'informazione delle 12 su Radio 24. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova, pantera.it, col TH. Vi presenta... Afectuoso para nuestro amigo Pino Insegno y todo el equipo del Voice Anatomy, ya tú sabes, de la Radio 24. Hallo Leute, liebe Grüße aus Deutschland an die ganzen Freunde von Radio 24, Pino Insegno, und an alle die Leute, die in der Voice Anatomy arbeiten. Tschüss! Hola, soy Francisco y desde Santiago de Chile le quiero mandar un fuerte saludo a todos mis amigos de Radio 24, en particularmente a mi amigo Pino Insegno y a toda su gente de Voice Anatomy. Mucha suerte y nos vemos pronto. Tutte le domeniche, dalle 14 alle 16, Voice Anatomy, ovviamente su Radio 24. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Un altro addio, cadere nell'oblio, cercarsi per un po' nel whisky di un bistro. Dove si va senza un'idea, dove si va domenica. Un giorno in più pensando a chi eri tu, cercando di capire cosa sono io. Come si fa di lunedì, come si fa se resti qui. Un giorno qualunque mi ricorderò di dimenticarti dentro un... Riprendiamo la nostra trasmissione Indovina chi viene a cena. Oggi parliamo di couscous, in collegamento in Sicilia con uno degli chef che partecipa al campionato mondiale di San Vito Lo Capo, Shadi Hasbun. In Palestina non lo chiamate couscous? No, si chiama maftoul, proprio dal termine che in arabo significa incocciare. In arabo, in palestinese si chiama maftoul, appunto la pietanza cucinata con il couscous. E tra l'altro, chiedendo in Palestina un couscous si rischierebbe una gaffe. ci sta, quello sì, soprattutto detto singolarmente. Ho capito, va bene, lasciamo che gli ascoltatori cerchino l'origine della parola palestinese. Potrebbe essere un gioco anche da fare. E come si fa questo couscous, io continuo a chiamarlo così per capirci con gli ascoltatori, alla palestinese? Qual è il classico couscous della Palestina rispetto a quello di Trapani che noi conosciamo un po' di più? Allora, in realtà è una ricetta molto molto semplice, ma di sapori molto ricchi. Ricordo infatti quando la mia nonna si alzava alle 5 di mattina per prepararlo dalla A alla Z, perché oggi troviamo tantissimi couscous precotti nei supermercati che hanno dei sapori e ormai delle consistenze fenomenali, perché ovviamente ci siamo migliorati via via. Però mi ricordo la mia nonna che con un setaccio, con un po' di semola e qualche gocciolina di acqua, faceva cadere queste goccioline di acqua sulla semola e poi le muoveva, diciamo, la semola in eccesso che cascava. Quello che rimaneva nel setaccio erano delle palline di couscous, ovviamente. E come venivano cotte queste qui? Venivano messe sopra a una pentola con del brodo di pollo, dove cuoceva ovviamente insieme già il pollo, la cipolla e i ceci, e questo couscous si rigenerava con il brodo di pollo. Quando voi poi andavamo a mangiarlo, questo couscous sapeva già del brodo di pollo e veniva semplicemente accompagnato con pollo cotto nel brodo, ceci e cipolle che venivano cotte anch'esse insieme al brodo del pollo, ed era una pietanza semplicissimo ma sicuramente di grande effetto, perché veniva fatto soprattutto per le feste. Quindi vedere i gesti della nonna che preparava questo piatto era una cosa meravigliosa, credo. Cedere al couscous precotto è secondo te una barbarità o è un compromesso accettabile? Credo che sia un compromesso accettabile oggigiorno. Con i tempi che noi abbiamo, pochissime persone avrebbero il tempo di alzarsi la mattina come faceva mia nonna e prepararselo dalla A alla Z. Quindi trovare dei couscous precotti buoni, oggi ce ne sono tante, direi che per casa soprattutto nulla vieta di utilizzare couscous precotto e fare ricette anche molto eleganti da chef, insomma. Scivola come immergere il sapone, vuoi darmela a bere la tua vanità, goccioli sciarme non mi va di infradiciarmi l'anima, tu che ti lagni dei miei pochi impegni in tema di premure e di filosofia, ma non mi sfiora più un istante neanche l'idea di chi tu sia. Un giorno qualunque ti ricorderò di dimenticarmi dentro un cestino. E a San Vito Lo Capo vengono presentate ricette anche particolari, tra l'altro anche dei dolci con il couscous, cose che noi magari non ci aspettiamo, accostamenti inusuali. Quali sono le ricette più curiose che hai avuto occasione in questi giorni di assaggiare lì? Guarda, le cose più belle in realtà, e poi vengono da tutto il mondo, partiamo dal presupposto che abbiamo conosciuto un sacco di chef in questi giorni qui ed è stata una delle cose più belle di questa esperienza, quindi più che la gara, più che la preparazione, è stato proprio conoscere, che ne so, la chef della Costa d'Avorio, gli chef nostri colleghi israeliani, gli chef dell'Angola, del Senegal, quindi una moltitudine di chef, gli chef italiani con cui siamo entrati in contatto subito fin dal primo giorno, e quella è stata, diciamo, la forza. Quelli che mi hanno colpito particolarmente sono i sapori agrodolci, dove c'è stato l'utilizzo sia nei dolci che nei salati, che ne so, del dattero. Il Senegal per esempio ha presentato un piatto con la carne il dattero ed era favoloso perché la cremina si sentiva quell'agrodolce, oppure uno dei prodotti tipici della cucina siciliana, che è il fico d'India, vederlo trasformare sia nei couscous dolci che sia nei couscous salati in un elemento fondamentale, insomma. Quindi diciamo l'agrodolce per me l'ha fatta da protagonista. Hai citato Israele, i palestinesi e gli israeliani litigano sull'origine dell'hummus di solito, invece sul couscous vi siete trovati d'accordo? Questa è una domanda cattivissima. E per quello che poi diciamo, fortunatamente il couscous è una cosa mediterranea, quindi su questione identitaria c'è sempre difficoltà su queste cose, soprattutto in Medio Oriente, perché non c'è ovviamente solo il hummus ma tante altre pietanze. Però diciamo che qui ce la siamo giocata correttamente, siamo anche usciti a cena insieme, quindi ci siamo anche aiutati in realtà da in qualche fase della gara, quindi sicuramente è un modo per aprirsi anche ad altre culture senza dover per forza gareggiare sempre chi ha fatto chi è il proprietario di chi. Quindi in questa situazione qui era più una cosa amichevole che una questione identitaria, diciamo così. Martedì la vita va così, un giorno tocchi il cielo e l'altro giù nel cesso, che sarà un coca e rum, lo dico qua, non bevo più. Tre giorni e poi è subito il weekend, a ricordare noi nel film di Via col Vento. Me ne infischio, dici a me, domani un altro giorno, dico a te. E poi all'improvviso mi ricorderò di dimenticarti dentro un cestino. Shadi Hasbun è anche un personaggio televisivo, ha ceduto alla televisione come è inevitabile ormai per tutti gli chef. Io mi diverto parecchio, la differenza è quella, nel senso che ho avuto un ristorante, ovviamente mi serviva per creare un po' una parte commerciale per la mia immagine, però siccome mi sono divertito tanto, adesso io ho chiuso il mio ristorante proprio per dedicarmi alla scuola, per dedicarmi appunto anche alle televisioni, quindi lo faccio proprio perché mi diverto, senza scopi secondari, ecco, questo è importante da dire. Senti, la cucina è ferma o è in movimento? Perché si parla sempre e spesso di una riscoperta del chilometro zero, degli ingredienti più vicini a noi, del recupero degli ingredienti più vicini alla terra, no? Però allo stesso tempo c'è la globalizzazione, lo scambio fra culture. Qual è la giusta sintesi fra queste due tendenze? Allora, rispondo alla prima domanda, che la cucina in movimento lo è in tutti i sensi, sia a livello di ingredienti, sia a livello di nuove tecnologie di utilizzo, sia di nuove tecniche anche di cottura. Quindi per la prima domanda ti dico sicuramente è in movimento. Dal punto di vista invece del prodotto stesso, l'unica cosa che mi sento di dirti è questo: il prodotto che noi utilizziamo nelle nostre tavole è di qualità. Per fare un esempio ai nostri telespettatori potrei fare solo questo esempio: se io ho bisogno di utilizzare un buon pistacchio, io sono toscano ovviamente di origine e in questo momento sono in Toscana, anche se poi rappresento qui la Palestina, ma te dove andresti a prenderlo un buon pistacchio, per esempio? In Sicilia. Esatto, quindi se io devo andare a prendere un pistacchio vado a Bronte, quindi su tante cose il chilometro zero è difficile da gestire, però potrei, come dicevo prima, una parola chiave di tutto che deve essere la qualità del prodotto, quindi stagionalità sicuramente sì, sui chilometri zero non sempre secondo me è efficace la cosa, quindi ovvio se io ho una buona patata, una buona mela, una buona pera di stagione in Toscana non la vado a cercare da altre parti, però su alcuni prodotti, e penso a qualcosa di siciliano, i pistacchi oppure i gamberi oppure altri tipi di specialità che da me non si trovano, ben venga. Io ho assaggiato in questi giorni la ricotta siciliana, sarebbe un delitto non utilizzare una buona ricotta siciliana per fare un chilometro zero al 100%. Oggi ho tantissime ricotte buone anche in Toscana, abbiamo tantissime buone verdure anche in Palestina, però ogni posto, ogni zona ha la sua peculiarità e io sfrutterei anche quelle peculiarità che esistono insomma in altri posti. Couscous trapanese, Ingredienti: 250 g di couscous precotto, 1 kg di pesci da brodo di varie qualità, scorfani, dentici, triglie e orate, olio extravergine d'oliva quanto basta, una noce di burro, 2 carote, 2 gambi di sedano, 2 cipolle, 1 spicchio d'aglio, un mazzetto di prezzemolo, una foglia di alloro, 3 o 4 pomodori maturi pelati tagliati a dadini, una bustina di zafferano, 50 g di mandorle tritate, sale e pepe quanto basta, un pizzico di paprika e peperoncino se lo gradite. Lavare i pesci, diliscarli e privarli della testa. Mettere in una pentola i resti dei pesci, ricoprirli d'acqua e aggiungere il sedano, una cipolla tagliata a pezzi e la foglia di alloro. Cuocere e, a cottura ultimata, filtrare il brodo e metterlo da parte. Tagliare il pesce a pezzi, soffriggere con l'olio l'altra cipolla, l'aglio e il prezzemolo tritati. Unire la foglia di alloro, i pomodori pelati e infine adagiarvi il pesce. Ricoprire con acqua aggiustando di sale e pepe, aggiungere lo zafferano stemperato in poca acqua calda e le mandorle tritate. Quando la salsa con il pesce sarà cotta, deve risultare sufficientemente addensata. Portare ad ebollizione 250 ml del brodo preparato assieme a 4 cucchiai d'olio. Togliere dal fuoco e aggiungere i granelli di couscous, mescolando delicatamente con una forchetta e lasciandogli assorbire il brodo. I granelli gonfieranno. Aggiungere quindi il burro e cuocere ancora a fuoco moderato per 3-4 minuti, mescolando costantemente con la forchetta. Bagnare con parte della salsa con i pesci il couscous e disporre sui piatti di portata, quindi condire con abbondante salsa e brodo di pesce. Servire dell'altro brodo caldo in una salsiera in modo che il commensale possa servirsene a piacimento. Non ci puoi svelare gli ingredienti e la preparazione del couscous che proponi a San Vito Lo Capo? In bocca al lupo! Ora tra poco sapremo chi vince, quindi vediamo un po' cosa succede. Grazie a Shadi Asmun, che è stato con noi, chef palestinese toscano, possiamo dire così? Sì, tosco-palestinese. Tosco-palestinese. Palestinese, va bene uguale. Grazie a te e gli amici del Couscous Fest in Sicilia a San Vito Lo Capo. Buon appetito a tutti. Io vi lascio in compagnia degli altri programmi di Radio 24 e Sole 24 Ore. Vi aspetto sabato prossimo su queste frequenze. Da Valentina Furlanetto è tutto. Ciao. You've got to give a little. That's the glory of love.